Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, nuova puntata dell'antologia estiva di Essere e Avere. Abbiamo selezionato e riorganizzato i temi che ci hanno accompagnato nel corso della stagione per tornare a riflettere su consumi e nuove tendenze, anticipando i segnali di un cambiamento verso un futuro che in molti casi è molto più vicino di quanto si pensi. La tecnologia oggi, lo sappiamo, è usa e getta, molti prodotti invecchiano alla svelta, alcuni sono appositamente creati con la data di scadenza, per così dire, così da indurre il consumatore a comprarne di nuovi. È l'obsolescenza tecnologica, programmata o meno, contro la quale però ora c'è una soluzione. Si chiama Upgradia, è il nuovo trend del marketing tecnologico e i suoi ispiratori, i suoi ambasciatori sono i maker. E sono riparazioni via app contro il degrado di parchi e arredo urbano, quelle lanciate dal Comune di Milano. Che pensi, mi ci penso io, è un'app che trasforma tutti noi cittadini in controllori. Spazio anche al fitness 2.0 che rivoluziona l'attività fisica quotidiana e è uno dei nuovi paradigmi del futuro, la ciclabilità. Vedete, signori, io credo di avere finalmente trovato risposta alla domanda che da tempo ci stiamo ponendo. Cos'è esattamente un maker? Prendete un po' del genio di Leonardo. Aggiungete un pizzico di nerd stile Sheldon di Big Bang Theory. E infine la creatività di MacGyver. Ecco voi. Grazie al trailer della Rimini Beach Mini Maker Fair per averci fornito la sintesi audio perfetta per introdurre il tema dei makers e parlare del nuovo trend del marketing tecnologico e digitale, Upgradia. È un trend che rivendica il diritto per tutti noi consumatori di riparare i nostri oggetti tecnologici anziché sostituirli continuamente, oppure di potenziare, modificare i nostri oggetti tradizionali aggiornati. Upgradandoli, appunto, come si fa con i software, trasformandoli in oggetti smart. Un'alternativa ecologica, sostenibile, all'insegna del riciclo e del riuso per combattere l'obsolescenza, programmata o meno. Un trend esploso con la crescita del movimento dei makers, gli smanettoni, i nuovi artigiani digitali, quelli delle stampanti 3D, per intenderci. Ne abbiamo parlato con Massimo Temporelli, fondatore e presidente di The Fab Lab Milano. Siamo all'inizio di un processo, una sorta di seme appena incastrato e infilato nel terreno. Ora dobbiamo vedere se questo seme ha la forza e soprattutto ci sia il terreno fertile per far crescere un albero rigoglioso. È chiaro che la tendenza è un po' questa, no? L'ha dimostrato il movimento dei makers, lo sta dimostrando. Il fatto che i Fab Lab lavorino anche sul il concetto di riciclo, però come spesso dico, i Fab Lab e i makers, il movimento della digital fabrication dal basso, deve servire soltanto per innescare una miccia che poi faccia divampare un incendio vero nell'industria, quella vera, quella di massa. I Fab Lab non sono la soluzione ai problemi della produzione mondiale, no? I Fab Lab sono un piccolo centro di ricerca e sviluppo distribuito che può mostrare al mondo industriale come si possono fare delle cose in modo nuovo. Poi però è l'industria, no? La grande industria, quella anche italiana, che deve prendere la palla in collaborazione con noi e giocarsi la partita vera, quella globale. Che cosa si fa in un Fab Lab? Ma fondamentalmente un Fab Lab è una piattaforma, è nata nel 2001 all'MIT di Boston, è una piattaforma di open innovation. L'open innovation è un luogo bellissimo, intellettuale, dove le persone condividono idee, chiamiamole idee, ma immagino a innovazioni, che condividendosi in una comunità allargata che va al di là dello spazio fisico di un singolo Fab Lab, ma si allarga in una rete di tanti altri laboratori, questa condivisione permette all'innovazione, all'idea che viene messa in condivisione da un singolo progettista, di esplodere, perché più menti ci lavorano insieme. Perché lo possiamo fare? Perché utilizziamo delle macchine che possiamo definire, come definirebbe Turing, macchine universali, nel senso che le stampanti 3D, le laser cutter, gli Arduino, le piattaforme di programmazione elettronica che abbiamo sono identiche a quelle che hanno a New York, o comunque sono compatibili e sono identiche a quelle che hanno a Buenos Aires piuttosto che a Città del Capo. Questo significa che quello che facciamo qua noi lo possiamo condividere ed altri possono prenderselo non tanto per sfruttarlo, ma per poi migliorarlo. Quindi noi a nostra volta lo riprendiamo e vediamo come quel prodotto possa essere adattato anche al nostro territorio. Questa cosa qua crea a basso costo, perché oggi stampanti 3D, laser cutter e piattaforme di programmazione elettronica costano veramente poche centinaia di euro o migliaia di euro, quindi sono accessibili. Sta creando una comunità molto simile alla comunità digitale su web, ma fisica, che si occupa di atomi, di prodotti. E questa cosa è un po' una rivoluzione ancora un po' nascosta in Italia, anche se è esplosa da qualche mese, che fa rima con appunto l'upgrading tecnologico ripensato, con la tecnologia che partono dal bisogno del cliente e che il cliente stesso va a ridisegnare con col progettista, in un concetto che si chiama prosumer. Quindi sta un po' veramente cambiando il mondo del prodotto e dell'acquisto dei beni. Tra l'altro, Massimo, il movimento dei makers in Italia è molto più consistente di quanto si pensi. Oggi si contano circa un centinaio di Fab Lab sul nostro territorio nazionale. Milano è la città in cui ci sono al mondo, insieme forse a Barcellona e a qualche città del nord Europa, più Fab Lab per popolazione. Insomma, sono 6-7 Fab Lab in una città, sono tantissimi in questo periodo. A tendere arriveremo anche a centinaia di Fab Lab in una città come Milano, forse perché è la città del design, anche per quello. Però questo è un segno che Milano e forse l'Italia può giocarsi un ruolo importante in questa, virgolette, nuova rivoluzione industriale. Questi smanettoni, questi artigiani digitali, da voi che tipo di oggetti creano, upgradano secondo questa tendenza agli oggetti fisici? Allora, sì, sicuramente oggetti fisici, quindi non più software che siamo abituati a scaricare da internet per migliorare i nostri sistemi operativi piuttosto che le nostre app, quindi stiamo parlando di oggetti fisici. Quello che spesso capita all'interno dei Fab Lab, non in tutti, è quello di riciclare motori, componenti elettronici o da altri progetti, cannibalizzandoli da progetti precedenti, oppure addirittura proprio da vecchie lavatrici piuttosto che vecchi computer. E questa cosa funziona, piace, è tutto un movimento, quello del hacking sugli oggetti fisici, che sta andando appunto bene non solo in Italia ma nel mondo, perché sviluppa creatività legata alla tecnologia. Il successo ad esempio di un progetto come Restart Project, sì, contro la tecnologia usa e getta, appunto con questi restart party per diffondere, sì, le competenze necessarie a riparare i prodotti di elettronica di consumo, dicono comunque di un'esigenza, di una sensibilità del consumatore, raccontano anche questo. Sì, io spero che si allarghi, ripeto, non deve rimanere un fenomeno da Fab Lab, deve diventare un fenomeno industriale in cui le stesse case di produzione ti dicono cosa devi fare di quell'oggetto, o meglio ti dicono, ti obbligano in qualche modo con dei processi di acquisto e vendita o di affitto a restituire la tecnologia in modo che quell'oggetto, penso allo smartphone che sto tenendo in mano durante questa intervista, è pieno di tecnologia anche sofisticatissima che tra 3 anni potrebbe essere inutile per un cellulare, ma magari buonissima per una lavatrice, per un tostapane. Perché buttare via tutto? Perché non pensare di trasformare il mio smartphone nel display della lavatrice tra 2 anni? Questa cosa qua, ripeto, noi possiamo mostrarla all'interno dei Fab Lab, ma dobbiamo poi trasferirla nel mondo del prodotto, quello industriale. Allora lì a quel punto faremo veramente massa critica e il risparmio in termini di energia, di smaltimento dei rifiuti, in termini di energia di riproduzione di nuovi beni, diventerebbe veramente qualcosa di interessante. Torneremo comunque a parlare di questo argomento perché abbiamo aperto uno scenario fatto di molte altre riflessioni per il mondo dei consumi. È l'approccio della circular economy, in cui, dicono gli studiosi, confluirà anche quello della sharing economy di cui tanto parliamo. La possibilità di rimettere in circolo, a ciclo continuo, il già utilizzato. In questo modo il costo di un telefono cellulare, pensate, si ridurrebbe del 50%. 1%, analogamente quello di una lavatrice di un terzo se viene noleggiata anziché venduta, e se al termine degli anni di utilizzo le sue componenti vengono riciclate e destinate ad un nuovo elettrodomestico. E tutto ciò comporterebbe non solo risparmi ma anche nuovi posti di lavoro. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, parliamo invece di riparazioni via app per gli spazi verdi del Comune di Milano, un bel progetto di cittadinanza attiva, e poi di Fitness 2.0. Restate con noi. Essere e avere. Che pensi me? Si chiama proprio così, Ge pensi mi, ci penso io, la più classica delle espressioni milanesi, resa celebre dal mitico Tino Scotti, l'app contro il degrado del Comune di Milano che trasforma ogni cittadino in controllore, sentinella della manutenzione di aree giochi, giardini e aree cani. Basta scaricarla, registrarsi e inviare la segnalazione richiedendo l'intervento. A pochi mesi dal lancio conta oltre 1000 utenti registrati e quasi un migliaio di segnalazioni. Modello di cittadinanza attiva e partecipata che ha molto da insegnare. Un'intuizione vincente, ci ha confermato l'assessore Chiara Visconti. Lo è sicuramente, perché i numeri lo confermano, con una grande partecipazione dei cittadini. Lo è soprattutto perché questi cittadini, quando segnalano, non fanno una segnalazione vaga che si perde nelle meandre degli uffici, ma interagiscono direttamente con il sistema gestionale del verde. Quindi è proprio una segnalazione che entra nella gestione diretta della città. Quindi il cittadino non solo ha un atteggiamento civico perché segnala una cosa che non va, ma mette proprio in moto il meccanismo che aggiusterà la cosa segnalata da lui. Quindi è proprio la partecipazione attiva nel senso più efficace e nobile del termine. Che cosa segnalano di più i cittadini? Aree giochi, dove spesso il grande utilizzo dei giochi ovviamente li ammalora, insomma li rovina, e le aree cani. In termini generali, quanto può beneficiare un'amministrazione di coinvolgimento attivo dei cittadini come questo? Guardi, moltissimo, le do un dato subito. Noi abbiamo sul verde 30 controllori che fanno questo di mestiere, vanno in giro e verificano come il nostro operatore lavora. Immediatamente adesso ne abbiamo 1030, quindi si sono aggiunti 3000 controllori che hanno un ruolo importantissimo proprio nella cura della città e nell'avere poi nei fatti una città più bella. È proprio una vera partecipazione, nel senso che si è parte di questo meccanismo che è il meccanismo di cura della città. Quindi è come se l'amministrazione di colpo avesse più potenza di fuoco, ed è una cosa molto bella, perché vuol dire farlo insieme ai cittadini nella città che si abita. È proprio, secondo me, il senso più nobile della partecipazione. Allora, voi siete pronti per il vostro riscaldamento? Portatevi subito il tappetino o un asciugamano vicino, perché dopo facciamo la ginnastica del bicipiti femorale. Ok, musica per favore. Focus sui trend. Lo sapete che noi italiani siamo i più palestrati d'Europa? Lo rivela il numero record di palestre sul nostro territorio, 12.000, ci ha ricordato il rapporto sui consumi COP 2015. E così anche il fitness, come molte altre attività quotidiane, è diventato 2.0. Non solo grazie ai fitness tracker, i braccialetti protagonisti dell'ondata wearable di cui abbiamo già parlato altre volte, ma anche grazie alle app e ad una serie di altri accessori tecnologici che potenziano, per così dire, gli attrezzi tradizionali, dalla corda per saltare alla cyclette. Questo è il tema del focus sui trend di questa puntata. Ne parliamo con Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ciao Isabella. Ciao a tutti, buonasera Maria Luisa. Allora, iniziamo a raccontare qualcuno di questi attrezzi potenziati, chiamiamoli così. Beh, a proposito della cyclette che hai menzionato prima, possiamo sicuramente citare Wide Run. È un vero e proprio sistema di allenamento messo a punto da un gruppo di giovani ricercatori di Trento, che rinnova completamente l'esperienza della bicicletta indoor, cioè quindi appunto cyclette o spinning bike. Wide Run si basa su un bike trainer, cioè una postazione a rulli sulla quale si aggancia la propria bicicletta per allenarsi appunto stando fermi, che però questo bike trainer è in grado di connettere la bicicletta a un visore di realtà virtuale che si indossa in testa e permette così di godere di un'esperienza di allenamento molto diversa, immersiva ma molto realistica. Si può andare sulle Alpi, a San Francisco, a Pechino, però cioè, le possibilità sono anche più creative, si può andare sulla Luna o entrare in un videogioco, sempre rimanendo fermi a casa. L'effetto realtà è garantito perché la bicicletta è controllata elettricamente dal bike trainer, che simula la resistenza del terreno, gli effetti della strada sulle ruote, in base proprio al percorso scelto. Bicicletta, ma non solo, so che hai selezionato altri attrezzi fitness smart. Sì, beh, per esempio è sicuramente interessante anche l'evoluzione che sta avendo un altro strumento finora molto basic per il fitness in casa, il tappetino per gli esercizi yoga, no? Quelli da fare a terra. Smart Mat, ad esempio, che è stato progettato da una startup americana, è un tappetino, proprio anche lui si arrotola, si porta con sé come quelli classici, che però permette di controllare e perfezionare la propria pratica yoga. All'inizio bisogna settarlo, si inseriscono i propri dati personali, cioè il sesso, l'età, il peso, con l'apposita applicazione da mettere sul tablet. E poi ci si stende sopra perché così il tappetino rileva in modo molto preciso le misure anche uniche del nostro corpo. In pratica il tappetino Smart Mat, che ha 21.000 sensori all'interno, rileva la pressione e la posizione del corpo durante lo yoga e capisce così se la postura e l'equilibrio sono giusti o vanno corretti. Se vanno corretti ce lo comunica sul tablet, sia con segnali visivi che proprio con delle istruzioni a voce, vocali, che si possono attivare in diverse modalità. Un altro degli elementi su cui punta il fitness 2.0 è la gamification, per rendere divertente l'attività fisica domestica. Sì, assolutamente. A questo proposito c'è un altro attrezzo classico che hai menzionato prima, che da più parti nel mondo viene rivisto in chiave proprio, come dici tu, di gamification, ma aggiungo anche negli aspetti di design e di ergonomia, ed è la corda per saltare. Ad esempio, in Corea del Sud, Tangram Factory propone una sua Smart Rope, una versione molto elegante di corda per saltare che ha per esempio manici cromati e ha, a proposito di design, un aggancio snodato della corda a 45 gradi, che quindi la rende più maneggevole e le fa seguire meglio la traiettoria di giro ideale che dovrebbe fare. La sua particolarità sta nell'avere incorporati 23 LED luminosi che, facendo girare la corda in allenamento, proiettano davanti a sé a mezz'aria i dati della propria performance in tempo reale. Il numero di salti che si sta facendo compare quasi per magia di fronte a chi si sta allenando, e questo lo aiuta, no? Aiuta chi fa fitness a tenere fissa la propria concentrazione sull'esercizio. Altro elemento importantissimo, lo accennavi poco fa, l'aspetto motivazionale, appunto via app o via social network, è molto importante. Sì, questo approccio motivazionale che è tipico del mondo anglosassone, in particolare americano, sta portando al successo veri e propri programmi di miglioramento personale condiviso, diciamo, che sfruttano l'idea del traguardo, del gioco a premi, ma da fare insieme. Diet Bet è un metodo pensato per perdere peso e tenersi in forma attraverso il raggiungimento di piccoli traguardi progressivi e quotidiani, e viene proposto come un vero e proprio game. Si va sul sito, si sceglie un obiettivo più o meno impegnativo di perdita di peso, si scommette la cifra corrispondente, ad esempio $25 per perdere il 4% del proprio peso nel giro di un mese, e poi si invia la propria foto proprio sulla bilancia, ecco, con visibile il proprio peso. Durante il periodo di dieta poi si possono condividere le foto, dei commenti, dei suggerimenti con gli altri partecipanti alla community che si è formata, no? Per sostenersi a vicenda. E alla scadenza della scommessa, se il traguardo è stato raggiunto, oltre alla soddisfazione del proprio successo di perdita di peso, che è sempre grande, si riceverà anche un premio in denaro, cioè la propria parte del jackpot che si è puntata, suddiviso tra tutti i partecipanti che hanno effettivamente vinto. Un super enalotto della dieta, fantastico. Questo abbiamo ancora 30 secondi per chiudere. Possiamo accennare al social network Mito, è un progetto già attivo che è stato tra l'altro certificato dal CONI attraverso il suo istituto di medicina sportiva ed è una guida personalizzata al benessere. Basta anche in questo caso collegarsi al sito mito.pro, iscriversi pagando circa 5 euro al mese e poi si può essere seguiti da un vero e proprio digital coach. Grazie Isabella, alla prossima. Ciao, arrivederci. Il consumautore. Questo è il momento della nostra riflessione finale. Il mondo dei consumi è cambiato, molti dei riferimenti tradizionali sono scomparsi, stiamo diventando tutti consumautori, appunto, con un ruolo sempre più attivo nella dinamica domanda-offerta. Noi però abbiamo scelto la nostra guida, ci aiuta a districarci nella giungla di informazioni Francesco Morace, ben trovato. Buonasera a tutti, a te Maria Luisa e ai radioascoltatori. Questa sera me lo hai anticipato, hai scelto un tema che mi sta molto a cuore, lo citiamo spesso come tema simbolo dei nuovi stili di vita e di consumo. Parliamo della bicicletta. Sì, addirittura noi utilizziamo un termine che è un'analogia di quello che avviene anche in altre aree, che è la ciclabilità, nel senso che la bicicletta oggi non è solo un'icona, è un nuovo oggetto per il desiderio. I ragazzi non desiderano più la prima auto, ma desiderano magari biciclette di design che hanno magari un costo simile a quella di un'auto. E questo perché avviene? Perché la bicicletta interpreta valori che sono da un lato di sostenibilità, città più pulite, ma anche di nuova energia vitale, quindi invece che andare in palestra a far finta di pedalare, riuscire davvero a usare la bicicletta per tenersi in forma, ma anche grande risparmio e comodità, perché non hai più il problema del parcheggio. Ecco, quindi è come se la bicicletta e la ciclabilità rappresentasse nuovi paradigmi che oggi si emergono all'orizzonte. Ci sono esempi diversi e anche molto interessanti. Da un lato la bicicletta diventa un oggetto su cui i progettisti, i creativi si stanno sbizzarrendo, ad esempio Lumen, che è una bicicletta che si illumina al buio e che è realizzata dagli artigiani di Mission Bicycle Company, che è una società di San Francisco, città dove la bicicletta sta in qualche modo rappresentando il nuovo stile di vita. E poi ancora G-Bike, che è un prototipo di bicicletta intelligente, pieghevole, leggera. È incredibile riflettere, Francesco, su quanto un oggetto così tradizionale, così ricco di storia, possa condensare appunto molte delle riflessioni sull'innovazione e sul futuro. Se ci avete fatto caso, compaiono molte biciclette negli spot anche televisivi o nelle immagini sulle riviste di oggi. Sì, giustamente si parla di smart city e si immagina una città tutta cablata, tecnologica, ma non dobbiamo dimenticare che le città del futuro saranno molto più simili alle città dell'Ottocento, quindi immaginiamoci non più auto volanti, ma biciclette attive con persone più sane e felici. Grazie, alla prossima. Grazie a te Maria Luisa e a tutti gli ascoltatori. E grazie anche in regia a Paolo Corleone e Roberta Frisani. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.